Semaforo, scatenate l'inferno. Prima dentro! Prima dentro! Gas a martello! E andiamo! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. I tried everything. I was at 3 or 3.5 fence down, and the tires were on the limit, so not more than I could have done in that lap. Sorry. Parte Gemayri col destro, deviazione. 1-0 Genoa. Decimo minuto. Gemayri con deviazione porta avanti il rossoblu. Si riprova ancora. Si riprova ancora. Non è Domo, Lorenzo c'è, Lorenzo c'è, c'è il Gran Premio di Aragona in solitudine, ma che gara, Guido, davanti a Pedrosa e Rossi, bravi, applaudiamo, applausi a scena aperta, tutti e due, tutti e tre. Applaudiamo, che gara, che domenica, che come dicevamo prima non è ancora finita, perché manca il mondiale di ciclismo, manca Inter-Fiorentina, sfida tra la prima e la seconda, manca la finale di Supercoppa di basket, anche ci siamo dimenticati. Domenica meravigliosa, saluto Carlo Genta, ciao Pino Insegno, che sei rimasto lì perché io scommetto tu vuoi la lettura esatta della classifica della Serie A. Sì, sì, voglio tutti i 90 minuti raccontati in un minuto. Riesci a declamarmi bene questo terzo posto della Lazio, quindi Inter 15, Torino 13, Lazio, Sassuolo e Fiorentina 12, come si può dire, insomma, detto così, bene con la voce giusta? Inter 15, non è importante. Torino 13, boh. Lazio 12 e basta. Lazio dietro e basta. Il deserto. Dietro il deserto, dietro anche la Roma, tra l'altro. 8-0-0-24-0-0-24. Non avevate già retrocessi, Pino? Chi? No, perché la Lazio? Che la Roma vince il campionato a maggio, no, ma non eravate, a giugno. Non eravate già retrocessi, poi Pioli deve andare via. Contestazione a Formello. Ma noi siamo così, il pubblico laziale, il popolo laziale è questo. Se non vede, arrivederci. Noi siamo sedentari da quel punto di vista, pretendiamo tanto e poi quando arriva il tanto vogliamo ancora di più. Quella è la storia della Lazio, non è quello. No, ma io Pioli non lo toccherei mai, perché è una persona straordinaria. Ma non è il vecchio padre o il reia della situazione, bello, lo zio anziano, cioè, è un uomo di gran classe, è un uomo che conosce il calcio, è un uomo che sa far girare uno spogliatoio, mi piace molto, no? Non lo metterei in discussione. È ovvio che poi le notizie le fanno, quello doveva essere il capitano, poi si è arrabbiato, allora non gioca, poi adesso che sta fuori forse si è offeso. Questi poi sono i racconti di voi straordinari giornalisti, sì, che scrivete Assunção come fai in prima pagina al Corriere dello Sport quando no, questo succede, che mistifichiamo un po'. Oh, a proposito delle prime pagine, 800 24 00 24, da adesso telefoni aperti. E tra l'altro facciamo un bel sondaggione, lo lanciamo anche su Twitter, lo dico a Claudia Schiattone, cioè Allegri va tenuto o va cacciato, perché oggi lo scrive sulla prima pagina Tutto Sport, che ha un po' di peso nella storia della Juventus e a Torino, e scrive Allegri è in tilt, così non si può andare avanti. E ma succede sempre il secondo di anno capire, Il secondo anno di Allegri è sempre un po' drammatico, mi ricordo pure col Milan successe più o meno la stessa storia, o sbaglio? Io credo che abbia più alibi che altro, credo che gli abbiano smontato un giocattolo che funzionava, magari non l'hanno ascoltato del tutto, però siamo qui per parlarne per 2 ore e quindi cerchiamo anche di capire cosa ne pensa la gente a casa. Ci sono anche gli sms 349-238-6666, ma lo sapete perché ho visto che ne arrivano tantissimi durante Voice Anatomy, e quindi non dovete far altro che ripetere quel gesto. È stata una domenica, Carlo, bellissima anche per i motori, un po' noiosa la Formula 1, ma quel duello, io non so se Pino hai avuto modo di vedere, tra poco Valentino Rossi e Pedrosa per il secondo posto, è il duello fra due geni. Fantastico vedere Rossi ancora si diverte, lo sai, cioè, lo dicevo anche durante la trasmissione, quando uno si diverte a fare il proprio mestiere è bello, vinci in tutto. Uno si deve divertire, lo dicevo, non è che un chirurgo quando opera a cuore aperto deve ridere, no, ma si deve divertire, gli deve piacere quello che fa, allora lo fa bene. E così vedi che Rossi è un bambino ancora entusiasta che cavalca la sua moto sotto casa, gioca con se stesso, gioca con lo sport, ed è pericoloso perché gioca con la sua vita poi a un certo punto, e lo sappiamo perfettamente. Lui veramente vale tutto quello che vale, in tutti i sensi, sia come nome che come valore umano e anche economico, che non è poco. Voglio mettermi anch'io tutte quelle adesivi adesso addosso a Boisanato, sì, mentre lo conduco, voglio mettere tutti gli sponsor addosso, anche se non si vedono. Metti anche però il no, casco. Bello. Sì, infine sono solo caso. Preoccupato del calcio della nostra nazionale quando sarà, perché sono finiti gli italiani, non so chi naturalizzeranno adesso, non beh, so, ieri sera abbiamo visto un italiano che può venire comodo, che è Insigne. Oggi abbiamo visto, sì, parleremo anche di questo, certo, parleremo di Balotelli, perché oggi c'era Conte, il vice di Conte, c'era tutto lo staff della nazionale a Genova per guardare la partita di Balotelli, perché fra settimana prossima, sabato, ci sono le convocazioni e quindi aspettiamo notizie, erano lì per capire se è recuperato. Io non so cosa pensi tu dell'idea, no, di riaprirgli le porte della nazionale. Se non lo convocano in nazionale viene a Boisanato, no. Esatto, chiamo qui come voce, tu, lui no? È particolare, tutto così, è un po' strano. No, io sono d'accordo se lo merita, questo è come il discorso Cassano, no? Adesso basta, basta, smette, eccetera, ma devi dimostrarlo in campo, le parole, mentre a Boisanato nella vita servono parole, qui nel calcio le parole servono quelle dei giornalisti, non quelle dei calciatori, insomma, e non dovrebbero far parlare di sé fuori dal campo. Lui ha avuto tantissime chance di essere inserito in alti livelli, non è mai cresciuto da quel punto di vista, non parlo come essere umano perché non mi permetto di giudicarlo, ma come calciatore diventa poi lo specchio di quello che succede nella quotidianità e non ha mai dimostrato grande simpatia da quel punto di vista, è neanche in campo, a parte quando è riuscito a segnare, a spogliarsi, a far vedere i muscoli un po' come fa Pardo durante le nostre trasmissioni, ma non si vede con esiti disastrosi, brutti, per cui no. Sono d'accordo se lui dimostra in campo, sicuramente non basta il nome per essere convocato, insomma la sua storia deve essere quella di oggi, preferisco naturalizzare qualcun altro a quel punto, però no, sì, non sono d'accordo. Però Balotelli non è stato naturalizzato, attenzione, no, perché no, lui se scivoliamo su questa cosa, sai che scateniamo... Che scherzi, no, non intendevo da quel punto di vista il colore, no, dicevo, preferisco, visto che non ci sono più italiani, a parte Balotelli, a parte questi eccetera, andiamo a naturalizzare qualcun altro, no, lui è italiano con tutti gli effetti. È italiano al 100%, nato a Palermo. Non voleva essere una definizione, però... Visto che il tema spesso è stato scivoloso, precisiamo che... Ma che scherzi, no, dicevo, visto sono finiti gli italiani e lui è un italiano, allora si rischia di magari chiamare von Feinstein, che c'aveva un trisavolo di Pavia, e allora no, così non mi piace. Vorrei che stessero più attenti al settore giovanile, perché ce n'abbiamo, all'improvviso non abbiamo più portieri, abbiamo inventato noi quel ruolo, non abbiamo più difensori, abbiamo inventato noi quel ruolo, dai, abbiamo le punte, abbiamo inventato noi il calcio insieme ad altri, non è il calcio l'hanno inventato gli inglesi, Pino. Sì, vabbè, chi se ne frega, qui non me lo scivolato, lo sapevo perfettamente, però ho capito, ma noi abbiamo inventato, va bene, basta. Ci vediamo, ci sentiamo domenica sì, prossima. Ciao Pino. Pardo è alle porte di Milano, è in arrivo da Genova, perché sarà lui a raccontarci come è andato Balotelli oggi in questo Genoa Milan, che è uno dei temi di giornata. Vi abbraccio ragazzi, il mio lavoro, grazie fuori casa. Grazie Pino. 800 24 00 24, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Insigne sbuca ancora, recupera il pallone, punta verso Higuain, lo cerca, 1-2, gran triangolo, il tiro, rete! Che gol! Insigne fa esplodere il San Paolo, grande scambio con Higuain, 1-0. Stai lontano da sto cuore, a te volo col pensiero. Attenzione, altro errore di Hernanes, incredibile, Higuain, 1-1, Higuain pronto al doppio, va sull'esterno, prova il sinistro, Higuain rete, il Pipita che gol, delirio al San Paolo, 2-0. Era una partita speciale, sappiamo lo che significa per questa città vincere la Juventus e bueno, per fortuna abbiamo fatto una partita quasi perfetta, non abbiamo lasciato fare niente a loro, penso che possiamo fare di più, ma contentissimo per il risultato e bueno, a continuare. Stasera è una partita a parte, per i napoletani questa è una partita particolare, io avevo promesso non il risultato ma avevo promesso che il pubblico sarebbe stato orgoglioso della squadra. Quando notte non ti vedo, non ti senti in dasti bracci. Sei preoccupato? No, assolutamente no, non sono preoccupato, come nel matto, ma credo di vedere molto bene le cose. Ai ragazzi stasera non ho da rimproverare niente, abbiamo preso 5 tiri dal Napoli su 5 palle perse in uscita. È una sfida importante quella del campionato per risalire e credo che i ragazzi ce la faranno. Allenatore, quindi sono sempre il mirino, io in particolar modo perché non aspettavano altro questo momento in tanti e quindi ora incomincia il divertimento, ora incomincia a divertirmi anch'io. A signora cia cia cia, muoviti andata e alla, fa una mossa provocante, sta signora cia cia cia cia. Io non so quanto si diverta veramente Allegri in queste ore. Oggi mi risulta i vertici della Juventus siano corsi a Vinovo per dare un po' di segnale di compattezza. Però qualche crepa c'è non solo nella classifica e nel gioco della Juventus, Carlo, perché adesso parliamo con uno dei protagonisti. Oggi ad esempio, leggendo la prima pagina di Tutto Sport, io ho fatto un balzo sul divano. Quella Allegri in tilt, non si può andare avanti così, che insomma è un titolo non casuale, credo. Sì, non è la prima volta, eh. Io penso anche che ci sia un po' di ronfa in questo momento tra Tutto Sport e la signora. Ci ricordiamo già un paio di settimane fa, prima di Manchester, come ci fosse stato qualche, diciamo, incomprensione, diciamo divergenza di opinioni. Certamente la Juventus è una squadra da costruire. Allegri non sta facendo il suo meglio perché ha cambiato 8 formazioni in 8 partite e così non vai da nessuna parte. Adesso è il momento della società, tu dicevi, vanno a Vinovo e fanno quello che devono, perché in questo momento è la società che deve dimostrare quello che vuole fare. Quindi o si chiude intorno ad Allegri e lo difende dentro al fortino, oppure lo abbandona e sarebbe oppure l'abbandono diventa deriva, deriva di una stagione strana. Guido Vacciago, Tutto Sport, ciao Guido. Ciao, buon pomeriggio anzi a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao Carlo. Avete dato i 7 giorni di preavviso ad Allegri questa mattina? No, non credo. E non credo neanche sia un problema di rapporti tra Tutto Sport e la Juve. Il titolo di oggi, io credo che il titolo di oggi sia una fotografia. Chiunque abbia assistito alla conferenza stampa dopo e alle dichiarazioni televisive prima di Allegri ha assistito a delle parole di un uomo confuso, perché insomma poi è anche parecchio innervosito, ecco, quindi ha risposto male anche dei suoi ex colleghi come Ciro Ferrara, non ha riconosciuto anche l'evidenza dei fatti, perché cercava di imporre un'analisi della partita che oggettivamente poi lui è sicuramente più titolato di noi e di chiunque altro perché allena la Juve, però poi ci sono delle verità oggettive che andrebbero in qualche modo riconosciute. Sostenere che la Juventus in questo momento ha un gioco è oggettivamente un po' troppo, perché mi sembra che non abbia un gioco. Ecco perché Allegri in tilt. Sì. Forse non ce l'ha neanche l'Inter, Guido, però l'Inter ha un'idea, ha un disegno, una filosofia, cosa che la Juventus in questo momento non ha. Però secondo me è un po' presto per giubilare un allenatore che ha appena vinto uno scudetto e arrivato in finale di Champions League. Quantomeno bisogna dargli il beneficio del dubbio di una squadra che non è stata ritoccata, è stata rifondata. Che è la domanda che stiamo facendo anche agli amici da casa, eh? Allegri sì o Allegri no? 800 24 00 24. Prego Guido. Ma sai, non è tanto comunque la decisione di giubilare o meno, non la prenderanno i giornali ma la prenderà la società. Io credo che Allegri si giochi la faccia con il distacco dal primo posto, si giochi la panchina con il distacco dal terzo, perché io credo che non sia un discorso di pancia o comunque di tifo, l'esonero o non esonero di Allegri. Credo che sia un discorso meramente economico. Alla Juventus sono abituati a ragionare in questo modo. Io credo che alla Juventus non possano permettersi di uscire dai primi tre posti di questo campionato. Se dovessero rendersi conto che il distacco inizia a essere preoccupante, io credo che potrebbero anche passare all'azione, perché un quarto posto, cioè uscire dalla Champions, sarebbe deleterio per il bilancio che, tutto sommato, riecheggiando un vecchio motto juventino, è l'unica cosa che conta. Inoltre c'è un altro problema, sempre un risvolto economico, che è quello dei grandi investimenti fatti quest'estate, ingenti sul mercato, che in qualche modo stanno traballando. Non dico che adesso siano bruciati, perché su questo sono completamente d'accordo, è prestissimo per dirlo, però la gestione di un Dybala, giocatore che è il giocatore più caro della gestione Agnelli, 40 milioni di euro, ricordiamolo, è quantomeno curiosa. Certo, non è messo nelle condizioni per esprimersi al massimo livello. Sì, quantomeno bizzarra anche altre scelte di Allegri, però certo, restando sul mercato, Guido, però poi prima o poi apriremo anche il capitolo delle responsabilità della società, perché quest'estate il mercato, che notoriamente non lo fa Allegri ma lo fa Marotta insieme a Paratici, è stato, io credo, paragonabile alla confusione che in questo momento è in testa Allegri, tra trequartisti, profili di centrocampisti, Cuadrado che è un giocatore atipico imbarcato all'ultimo minuto, spese pazze tipo quella di Zaza, che evidentemente a questa squadra non serve. Ma sì, secondo me hai toccato un tasto che va toccato, e peraltro non è un segreto, posso anticiparlo, verrà toccato anche da noi domani, quello della campagna acquisti, perché è andata benissimo fino a un certo punto, poi a metà di luglio, quasi in coincidenza con la cessione di Vidal, forse una cessione che non era preventivata nel piano iniziale, da lì è iniziato un po' a intorcinarsi, ad attorcigliarsi intorno a delle idee sbagliate, a delle idee soprattutto confuse. Allegri ha toccato con mano quello che ha toccato prima di lui Conte. Allegri chiedeva disperatamente un trequartista, non gliel'hanno preso, ammesso che si voglia considerare Hernanes preso all'ultimo minuto un trequartista, e io non voglio considerarlo come tale, o comunque certamente non è il livello di trequartista che si aspettava Allegri. In compenso, a un certo punto è spuntato questo Cuadrado, che alla luce di queste prime partite è paradossalmente l'acquisto più azzeccato, perché effettivamente è l'unico che ha dato l'idea di poter cambiare qualcosa, di avere dentro quella classe e quel furore che serve per svegliare la squadra. Però è buffo, perché è un giocatore che assolutamente non faceva parte del piano strategico di Allegri. Viene da chiedersi, ma si sono parlati a un certo punto? Questa io credo sia poi la domanda che sta a fondo di tutto, compresa anche un po' di crisi nelle scelte di Allegri, che io lo dico, so che tanti stanno anche scrivendo, Allegri non è all'altezza del suo compito, Allegri deve essere cacciato, c'è anche chi fa dei nomi di possibili sostituti. Io dico, secondo me oggi Allegri ha più alibi che colpe, è più vittima che colpevole della situazione del Napoli, dove, della Juventus, dove pure ci sta mettendo del suo. Ti saluto Guido, grazie. Ciao Guido. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Grazie Guido Vaciago, 800240024, Massimo da Napoli. Poi vi faccio sentire un buffon particolare di oggi, Massimo da Napoli. Salve, buona convocazione a tutti. Volevo fare una riflessione, sono tifoso del Napoli, però non voglio parlare del Napoli oggi. Facevo una riflessione su Allegri, no? E pensavo questo. Cioè, lui è andato a Milano e ha trovato una squadra pronta e ha vinto il primo anno lo scudetto e poi dopo è stato cacciato. No, è andato a Torino. Per la verità ha fatto tre stagioni. Vabbè, dopo tre stagioni ha vinto un solo scudetto. E ha vinto uno scudetto. Il terzo anno forse è stato il suo migliore, con quella rimonta che ci ricordiamo. A Torino la stessa roba, no? Arriva, trova una squadra pronta, vince lo scudetto, tutto molto bello. Poi appena c'è da metterci del suo, viene meno. Allora, cioè, non è che io non voglio mettere in dubbio le sue capacità, però una riflessione forse la farei. Sì, ma io credo Massimo che la riflessione sia giusta, però se tu devi ricostruire un ciclo e una squadra e hai in testa determinati profili e un determinato modulo, e dal mercato alla fine ti viene consegnato qualcosa che è completamente fuori da quegli schemi, secondo me quantomeno c'è un concorso di colpa. Ma uno squadrone, ragazzi, cioè, non è uno squadrone potenziale. Scrive un amico: Dybala 22 anni, Morata 22 anni, Pogba 21, Lemina 21, Pereira 23, ci sono anche tanti giovani, c'è Zaza che abbiamo citato, è l'inizio di un nuovo ciclo, l'ha detto anche Buffon oggi, ve lo faccio sentire. Insieme a quella del 2010, cioè l'anno della rinascita, questa è la sfida più difficile. Viviamo e vivo di sfide continue, e più ardue sono, chiaramente più grande è la gioia nel caso si dovessero vincere. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Saramini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Convocati. C'è un volto che ride su Sky, è quello di Urbano Cairo. Riusciamo a sentire, adesso c'è Marocchi che parla. Allora, 800 24 0024, ecco qui Urbano Cairo. Ce l'ho per vari motivi. Costa Curta lo vedo sempre in una pasticceria milanese. Marocchi non ci vediamo, ma insomma ci vedremo, spero presto. Insomma, abbiamo colto l'essenza del secondo posto del Toro di quest'anno, Costa Curta in una pasticceria di Milano. Mattia da Firenze. Ciao, buongiorno. Torino sarà una bella pasticceria al prossimo mercato. Allora, vorrei fare due considerazioni su Allegri. Allora, poco fa ho sentito dire che non è vittima, cioè più vittima il carnefice che non ha colpe ma qualche altro in più. Beh, mi si è accapponata la pelle. Allora, innanzitutto dal punto di vista tattico, questo è un allenatore che ha vinto entrambe le volte a Milano e a Torino con squadre non costruite da lui. Sì. Squadre forti. Poi voi omettete tutto questo fatto che è arrivato a Berlino in finale, dove Conte ha detto che la Juve non poteva nemmeno immaginare di avvicinarsi. Però prego. A Berlino a finale ha trovato un Borussia Dortmund superato il girone in un'annata disastrosa, un girone ridicolo perché quello di Real Madrid è scarso. Perché quello di Conte com'era? Scusi, l'unico, quando è andato fuori con Galatasaray. Quando è andato fuori col Galatasaray per colpa della neve, dei trattorini, di tutte queste cose. No, beh, il Real Madrid, diciamo, è prima del Barça, è l'unica squadra che ha trovato, ok. Ma io guardiamo a quest'anno. Sì. Al di là delle otto formazioni, non è stato l'unico in Serie A che in sei giornate ha giocato con sei squadre diverse, è l'unico che ha fatto cinque punti a tre squadre, perché nessuno ne parla, il Sassuolo, andiamo a vedere con quante formazioni ha giocato, eppure o il Chievo stesso, hanno cinque punti in più della Juve, quindi non è il fatto delle otto squadre. E il fatto è che non c'è una mentalità, perché è un allenatore che non gliela dà una squadra a mentalità Allegri. Non lo so, io ho qualche perplessità, ce l'ho, amico. Detto che Allegri ha delle colpe, perché è evidente che Allegri ha vinto lo scudetto, è andato in finale di Champions per merito di Conte, è una pipa e adesso non conta più nulla e non è capace, va mandato via. È arrivato in finale di Champions, ha vinto il quarto scudetto consecutivo con una squadra, lasciando stare Tevez, Pirlo e Vidal che non ci sono più, c'erano l'anno scorso, ma la squadra aveva la grinta, la strutturazione sia mentale sia tattica, non parlo dal punto di vista fisico dei preparazioni atletica, tattica dello stare in campo col modulo. Lui ha cambiato modulo, quest'anno ha fatto 5 punti. Sì, ha cambiato modulo l'anno scorso nella partita più importante della prima parte di stagione, quella in casa con l'Olympiacos, dove la Juventus rischiava di fare la fine dell'anno prima. Con Tevez che ha fatto 20 gol, con Pirlo che era Pirlo e con Vidal in mezzo in campo. Se te li togli i tre pilastri, la Juventus ha dimostrato che con Allegri, poi uno oggi si deve basare su questo, con Allegri poi ci sta che qualsiasi altro allenatore avesse fatto addirittura peggio, semmai c'aveva 0-1 punto. Però con Allegri la Juventus, senza i tre giocatori che ha dato via, non è più una squadra nel campionato italiano strutturata, non è più una squadra che ha un senso. Non è più una squadra che ha un senso, mi sembra un po' esagerato. Tra l'altro ha scritto Simone, un amico, al 349-238-6666, che Allegri, arrivato al Milan, ha trovato l'eredità di Leonardo, cioè non propriamente una squadra che non era una squadra vincente, una squadra pronta, vincendo una squadra scudetti fatta, e tutto. Grazie comunque, Mattia. Grazie. Parliamo di Milan. volontà, facciamo un tempo alla partita che sicuramente non va bene. Primo tempo non è che abbiamo fatto male, ma non abbiamo fatto bene. Genova ha fatto la partita che voleva, noi ci è mancata la cattiveria del secondo tempo, abbiamo perso troppi errori, troppi duelli individuali, giocando loro a uomo non ti puoi aspettare altro. Parte Gemairi col destro, deviazione! 1-0 Genova! Decimo minuto! Gemairi con deviazione! Porta avanti il rossoblu! Per volta dove si può arrivare? Non lo so dove si può arrivare. Guarderemo la partita, cercheremo di analizzarla per bene, a mente fredda, e preparare poi dopo la partita di domenica con Napoli, che sarà sicuramente molto difficile. Dove si può arrivare giocando soltanto metà partita? A Udine è arrivata la vittoria, a Marassi è arrivata la sconfitta, da noi è arrivato Franco Ordine. Ciao Franco. Eccomi qua. Ciao. Dove si arriva giocando a metà? A metà classifica. Anche questa è una massima, eh. Dove vuoi arrivare? Giocando soprattutto, poi insomma, il paradosso è che nel secondo tempo in 10 contro 11 hanno creato le uniche vere clamorose occasioni da gol che ha avuto prima Bertolacci, poi Kučka e alla fine Rodrigo Eri col colpo di testa. E questo ti fa capire che c'è un problema legato proprio alla maturità complessiva del gruppo, perché non è pensabile né quello che è successo a Udine né quello che è successo a Genova. Sì, secondo me neanche quello che era successo in precedenza, ad esempio in casa con l'Empoli, partita vinta, esatto. E giocata malissimo. Io devo dirvi la verità e ve la metto lì da analizzare anche gli amici a casa, poi domani leggeremo meno punti di Inzaghi, più punti di Allegri quando è arrivato secondo. Il dato che secondo me è più interessante su cui focalizzarci è che il Milan in queste 6 giornate ha preso 9 gol, esattamente come il Milan di Inzaghi, e noi abbiamo salutato tutti Mihajlovic come l'uomo che avrebbe finalmente organizzato la fase difensiva di questa squadra. Sì, si parla anche, Ciccio, si parla anche di maturità della squadra, ma anche dei singoli, perché Romagnoli deve crescere e maturare, perché Eli è un ragazzino, perché Calabria è un ragazzino, De Sciglio certo non è anziano. Questa non vuole essere una scusante, però bisogna parlare anche di una maturità, una maturazione in corso ancora lontana di alcuni giocatori importanti. Sì, non solo, però aggiungerei che comunque comunque sull'argomento difesa obiettivamente qui si gioca anche la credibilità dello stesso Mihajlovic, perché dal punto di vista complessivo, quindi dal punto di vista dell'organizzazione difensiva, io non ho colto nessun tipo di miglioramento. E devo dire che oggi, per la prima volta, ho visto in grande difficoltà Calabria, che pure è un ragazzo dotato di un sicuro avvenire. Ho visto ancora in difficoltà De Sciglio, come succede all'inizio del campionato. E poi devo dire che sulla doppia ammonizione di Romagnoli c'è una responsabilità anche di Tagliavento, ma in quel caso devo dire che anche il ragazzo ha peccato clamorosamente di ingenuità. Sì, bisogna stare un po' più attenti se sai già di essere stato ammonito. Certo. Poi c'è la domanda delle domande, perché oggi c'era Conte con tutto lo staff della Nazionale a Marassi per vedere Mario Balotelli. La domanda è: sabato prossimo, ore 20, quando da Coverciano uscirà la lista dei 27-28 convocati per gli ultimi 2 impegni di qualificazione, ci sarà o no Balotelli, secondo te? Si è guadagnato oggi i gradi? Non oggi, io penso che non si sia guadagnato oggi. Secondo me lì nessuno ha mai discusso il calciatore Balotelli. È stato sempre discusso il Balotelli, diciamo tra virgolette, fuori dal campo. Il colloquio tra Conte e Mihajlovic è avvenuto non su che cosa fa in allenamento Balotelli, ma per come si comporta. E quindi questo credo che sia in questo momento la garanzia. Quindi tu ti aspetti sabato prossimo Balotelli convocato con tutto quello che significa, io lo dico, anche per il Milan, perché un conto è avere Balotelli terzo imbarcato all'ultimo istante da Liverpool, un conto è avere un giocatore che diventa un prospetto per l'Europeo del 2016. Auguri a Mihajlovic, che dovrà gestire la rotazione con Bacca e Luis Adriano con solo il campionato e la Coppa Italia da fare. Ma forse andiamo un po' avanti. Beh, ma d'altra parte se gioca come sa giocare, voglio dire, chi tira le punizioni in quel modo, io immagino la gioia, Carlo, di chi ha speso 30 milioni per Bacca e 8 per un giocatore che scadeva 6 mesi dopo. Altri non giocano, No, lo so io. Franco, tu che idea hai? Poi ti salutiamo. Io penso questo, che insomma Bacca aveva dimostrato a Udine di avere un po' le pile scariche ed è stato giusto farlo partire dalla panchina. Poi dopo è evidente che il fatto di essere ridotto in 10 ha accorciato i tempi del suo ingresso, altrimenti in una prospettiva di 11 contro 11 probabilmente sarebbe entrato prima in campo. Devo dire che non ha avuto molto tempo per mettersi in mostra. Aggiungo una cosa, che Balotelli è una risorsa e quindi se sta così e se ha messo davvero la testa a posto, è evidente che toglie il posto a uno dei due. Assoluto a uno dei due. Cioè. Buonasera Ordine, buonasera Capuano, sì. E buonasera Agenta, scusate ma... No, dica Presidente. Ero di passaggio, sì. E mi sentivo di venire a dirvi alcune cose, sì. Le dico anche a Ordine. Io penso che il Milan abbia dimostrato un'ottima organizzazione di giuoco. No, non mi sembra. La squadra io ho scritto un libro negli anni 90, quindi... Sì, ma forse è passato qualche... Il presidente, quindi non mi potete prendere in castagna. È passato qualche anno comunque, e anche la mia dentatura è leggermente sfasata. Com'è che si migliora, ecco, Presidente? Comunque, questo ecco, mio, questo volevo spiegare, insomma, a Ordine, perché oggi. Ordine ha scritto un libro 20 anni fa e adesso devo rinsavirlo un attimo. Allora, mi ascolti, Ordine. Allora, innanzitutto toglierei quello il cui cognome non è facilissimo, sì, da pronunciare. Bacca, che tanto non giocava, però non perché bisogna anche precisare, le due O del cognome, Bacca 2O. No, non è Bacca 2O, è... Almeno sorrida, per l'educazione, lo pensate tutta la notte, gente. Almeno dica che ci bella dica battuta, Presidente. Ci dica una cosa che fa, perché poi andiamo in traffico. Bella battuta. Comunque. Allora, bravo, ecco, questo mi aspettavo perché l'ho preparata a lungo. Dicevo, compreremo un giovane di prospettiva, sì. E questo deve ascoltarlo anche Ordine, lo preleveremo dalla Sampdoria, è un difensore che non si è mai fatto espellere e si chiama Romagnoli. Ecco, l'avete preso, è stato espulso. E poi è un terzo fattore. Sì. Mi dovrebbe chiedere quale? Non mi ricordo. Ciao Franco. Ciao Gizzo. È il nostro Andro Mercu, traffico. Di che cazzo stiamo parlando? Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. Mi è sembrato di vedere Marquez in terra, incredibile, Marquez in terra, l'avevo visto, largo, è andato largo, ha perso l'anteriore, lascia la sua moto per terra, lascia Lorenzo là davanti. È stato bravo, ci ho provato e... Ho delle cose per cui essere contento, perché la battaglia è stata bellissima e anche la gara è stata bella, perché sono riuscito ad andare forte. Peccato che alla fine mi ha battuto. Ci ho provato, vi assicuro, in tutti i modi, ma oggi era forte, era ispirato e quindi non mi ha fatto stare davanti. Quello che non ha fatto stare davanti Valentino Rossi è Pedrosa. Lorenzo se n'era già andato con la sua vittoria che riapre i giochi del Mondiale, 14 lunghezze di distacco fra Rossi e Lorenzo. C'è stato quel meraviglioso duello tra Rossi e Pedrosa negli ultimi giri, ma anche proprio nelle ultime curve. Saluto Antonio Boselli di Sky. Ciao Antonio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Io credo che Lorenzo debba una cena o ce l'avesse in ballo con Pedrosa, che io non ho mai visto guidare così, sì. Nemmeno quando era in lizza. primo credo 4 punti gli ha regalato. Gli ha regalato 4 punti, gli ha fatto un grande favore, ma io così combattivo non me lo ricordo nemmeno quando potevi in effetti combattere per il mondiale. Marquez invece si è sdraiato subito, ormai è fuori dai giochi, anche abbastanza fuori giri Marquez, ma potevano andare avanti a correre per un'altra settimana, Valentino oggi non ce l'avrebbe fatta a conquistare il secondo posto. Che dici Antonio? Dico che oggi era dura, comunque sono d'accordo, un Daniel Pedrosa così erano tanti anni che non si vedeva, anche perché lui ha sempre ricevuto tante critiche per essere un pilota che sul corpo a corpo ha sempre fatto molta fatica, e al contrario invece Valentino Rossi è sempre stato considerato il miglior pilota in assoluto nel corpo a corpo. Oggi sono un po' invertite le posizioni, io credo se Valentino avesse un po', non dico il braccino, perché comunque ha fatto una grande gara, ha migliorato tanto le prestazioni rispetto alle libere, alla qualifica, però lo ha sorpassato più volte, è stato Rigi sorpassato da Pedrosa, ma probabilmente diciamo, quella zampata che sappiamo essere capace Valentino non l'ha voluta fare, perché comunque 4 gare dalla fine ha sentito secondo me proprio il peso dei punti, che è vero ne ha persi 9, 4 in più se avesse sorpassato Pedrosa, ma nei fatti è ancora lì e sta lottando. Sì. Però credo che abbia guardato tanto in ottica classifica mondiale Valentino. Sì, opinione personale, ha rischiato anche troppo in quell'ultimo giro, in quelle ultime curve, perché se finiva per terra giusto, Valentino Rossi si giocava quasi il mondiale. Qualcosa di diverso da lui non te lo aspetti, dai. No, assolutamente, è la sua mostruosa forza mentale, la stessa forza mentale che io credo abbia anche Hamilton, che veniva da un gran premio da incubo a Singapore. Oggi ha bruciato Rosberg in partenza, a proposito di cattiveria e di forza mentale, è andato via, credo abbia chiuso definitivamente, ammesso che fosse aperto il mondiale, ha raggiunto un mito come Senna, 41 vittorie in carriera. Io non so cos'altro si possa aggiungere, dimmi due cose sulla Ferrari, perché è tutto scontato in casa Mercedes, no? È scontato adesso sulla Mercedes, che a Suzuka ha spazzato via tutte le nuvole che si erano addensate e anche le speranze della Ferrari. Credo che l'aspetto psicologico più rilevante di Hamilton è che lui e la squadra non si è fatta prendere dal panico, perché dopo Singapore sembrava veramente che fossero caduti in un diciamo in un vortice dove non uscivano fuori. In realtà è stato un episodio, si è visto sin da subito che le Mercedes c'erano con una forza tale per cui Rosberg, per dire, in partenza è partita dalla pole, ha sbagliato la partenza, si è trovato quarto e poi con un sorpasso in pista su Bottas e con un undercut, quindi sfruttando un stop anticipato andava talmente forte che si è piazzato in seconda posizione. Guarda, io in merito alla forza mentale, Hamilton quest'anno ha dimostrato di essere più forte e non ce n'è per nessuno, e soprattutto ha assolutamente spazzato via il compagno di squadra. Io comunque sottolineo ancora una volta la prova di Sebastian Vettel, perché comunque anche in un'occasione dove insomma doveva cercare di partire subito e di fare il massimo, lo ha fatto, non ha perso l'occasione, si è qualificato nel miglior dei modi possibili, ha fatto una gara impeccabile, è un pilota che tutta la stagione probabilmente ha sbagliato un paio di manovre in Bahrain, per il resto è stato impeccabile, e quindi nota di merito a Sebastian Vettel. Ecco, se parliamo dal punto di vista psicologico, forse la cosa più rilevante della giornata è stata questa merito di Fernando Alonso. Sì, lo facciamo sentire, facciamo sentire Alonso che alla radio con il team ha sbroccato letteralmente. Lo facciamo sentire, ce l'abbiamo, sì, eccolo. Alonso. Ah, durissimo, motore di GP2. Mamma mia. Ho capito di bene. Sì, anche io ho capito questo. E qui dimostra la frustrazione che ha Alonso. Alonso, la prima volta, tra l'altro l'ha detto a Suzuka, in casa di quelli che fanno il motore della McLaren. Hai 30 secondi Antonio Boselli per raccontarci che cosa accade in queste ore ad Alonso. Allora, viene passato per le armi, non lo so. Velocissimamente, lui è molto frustrato, poi ha ribadito con un tweet che rimarrà la McLaren, perché si sono subito scatenate le voci di un messaggio al team, ma in realtà al mondo, come dire, io qui non ci voglio, e quindi si è parlato subito di un bagno in cioccolare Bull motorizzata Ferrari, è fantamercato. Di sicuro è un pilota che sta soffrendo tanto, perché sa di essere cortissimo su una macchina che va pianissimo. Ron Dennis ha anche detto che non gli è piaciuta come uscita. Credo che rimarrà in McLaren, perché se andasse via sarebbe veramente un altro colpo di scena sì. nella carriera che ce ne ha riservati tanti. E rimane il fatto, a me personalmente, ma credo a tanti appassionati di Formula 1, che sia un peccato vedere un fenomeno del genere sulla sì, è un peccato vederlo sulla McLaren, è stato un peccato anche a tratti vederlo sulla Ferrari. Grazie ad Antonio Boselli. Grazie a voi. Ciao Antonio. Noi torniamo subito dopo il GR 800240024. Bellissimo spettacolo di sport, bravi. Tutti convocati. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Che dire? Arieccice. Tutti convocati. È bello sognare sempre nella vita, no? La sera finisce una giornata, andiamo a dormire e sogniamo le cose belle per allontanare le cose brutte. Allora che in Napoli vi faccia sempre sognare tutti i giorni dell'anno, e quindi così andremo avanti a braccetto fino alla fine, vedremo dove arriveremo. A me spiace sinceramente interrompere questo momento, ma devo farlo, è arrivato Pierluigi Pardo. Ecco, ciao Pier. Ecco come va, vi ho seguito. Cosa hai sognato mentre venivi da Genova a Milano? Spero che tu non abbia dormito. Ho sognato di dormire. Grande pennica ormai. Ecco, se la mia componente onirica è ridotta ai minimi termini. Fa bene il Napoli a sognare, fa bene De Laurentiis a sognare. Napoli è fortissimo, deve cominciare a vincere le partite ignoranti, deve cominciare a vincere le partite quelle banali, no? Con le squadre piccole, quelle che ancora non ha mai vinto. Sconfitta a Sassuolo, il pareggio a Empoli, il pareggio a Carpi, ecco. Ma che pareggio a Carpi, ma che gli avete dato a sto De Laurentiis, eh? Sì, cosa, una presidente? Una flebo exanac, presidente, come va? Che gli avete dato? Hai visto che parla come Ferrero, ha usato un'iperbole come quelle di Ferrero, presidente, le ruba al posto. Ma non si è capito niente, non si è capito. No, io dico un sacco di cose belle. Come per esempio Sampe e Doria, ma sto tizio non si è capito un cazzo. Presidente, non si può. Ma io a furia di vedere i suoi piccini panettoni mi viene l'orchite. Mi si gonfia la prostata. No, tanto presidente è qui perché la Sampdoria oggi non ha giocato, ieri domani, non ha giocato. Domani a Bergen. Noi giochiamo domani con l'Atalanta. A Bergen. È vicino, Genoa va tutto il Milan. Quindi oggi bisogna fare complimenti all'altra squadra di Genova. A me non mi frega niente. Di cosa? Del Milan? No, non mi frega niente del Genoa. Presidente, non Aurelio, faccia così. Io te piglio a rotula e me ce faccio il mouse. Ma no, presidente. 800 24 00 24. C'è Andrea da Roma che credo ci aspetti dalle guerre puniche. Andrea, sì. Eccoci, siamo qui. È morto. Sì, secondo me quest'anno Allegri non ha colpe. Oh. Ci aspettava, è entrato bello deciso sul tema, prego. Sì. No, ieri sera, ecco, forse se avesse fatto giocare Quadrato, forse sarebbe stato meglio. Sì, c'è questo paradosso, il migliore di questo inizio di stagione, poi vai a Napoli e lo togli, però... Sì, infatti non si è capito bene come mai, anche perché, insomma, vista la difesa del Napoli, magari con la sua velocità... Però noi lo stiamo dicendo, io lo sto dicendo. Come va il sondaggio? Mi sembrava... Il sondaggione dice che circa l'80% è per la conferma di Allegri, quindi ancora una prova di fiducia, e diciamo c'è una minoranza che invece lo vorrebbe cacciato. Mentre devo dirti che gli sms 349-238-6666 sono tanti quelli critici, ma anche quelli che hanno telefonato. Io sì, dico, sì, ho sentito. Secondo me è più vittima di confusione non solo sua che autore del disastro che è la Juve in questo momento. Sì, sono abbastanza... non ha più il centrocampo dell'anno scorso, perché Ieri praticamente giocava solamente Pogba per sì, centrocampo dell'anno scorso. Non, quindi... non c'ha neanche quello che vorrebbe, perché Marchisio è rotto e che dirà pure. Quindi... Sì, e voleva un trequartista che non è arrivato, non so, Pier. Per... No, ma io è inutile sono, fare l'elenco. Sono sempre dell'idea che insomma Allegri, che non può essere che quando le cose vanno male è colpa di Allegri, e quando vanno bene è merito di Conte. Detto questo, anche lui sicuramente sta contribuendo alla confusione, su questo non ci sono dubbi. Però cacciarlo adesso, metterlo così tanto in discussione, mi sembra veramente ingeneroso. Mi sembra che venga fatto perché di fondo la fiducia nei suoi confronti non c'è mai stata. Io mi ricordo il luglio del 2014, no? I tifosi della Juve che erano preoccupatissimi per l'arrivo di Allegri, poi Allegri ha dimostrato la stagione scorsa. Siamo tornati a lì, delle cose ad Allegri vatte. Preoccupatissimi, gli sputavano, gli prendevano la calcia. Mi sembra, mi sembra francamente eccessivo questa squadra. Sentivo prima un ascoltatore che diceva che parlava insomma del fatto che non è adeguato, però insomma voglio dire, questi giocatori che non sta avendo adesso, manca la controprova. Cioè io non so se Conte senza Tevez, senza Pirlo, senza Llorente, senza Vidal avrebbe ottenuto questi risultati. Quindi a me sembra francamente un po' ingenerosa la critica nei confronti di Allegri. Poi certo, quando Allegri dice che ha visto un passo avanti, che è ottimista dopo la partita di ieri, è chiaro che dimostra di essere un po' in confusione. Ecco, e chiama uno sforzo, diciamo, di iperottimismo e tifosi della Juve. Non ha ancora fatto molto sulla via della costruzione, no, della squadra Allegri. Però non dimentichiamo che alla Juventus spesso ci sono queste prove di forza, magari anche tacite, no? Tra sì, sì, la società e l'allenatore. La società dice: il mercato lo faccio io e tu alleni quelli che ti do. Io non posso dimenticare quando arrivò Conte, la Juventus aveva preso Ziegler, non l'ha neanche voluto vedere, l'ha scritto sì, sì, via, non ha fatto neanche un minuto in allenamento. Luca Toni non ha mai calcato il campo. Calcato il campo. E ricordo la prima di Vidal al trofeo Berlusconi, Vidal non l'aveva voluto lui, non gli piaceva più di tanto, l'aveva messo a giocare alla destra con disastrosi sì, risultati. Ma è un po' anche la storia di tanti club, eh? Mancini quest'estate ne ha combinati tutti i colori. Giulio da Modena, Giulio. Sì, ciao. Prego. A tutti, grazie della convocazione. Io infatti mi riferivo sul discorso Milan, visto che ne parlavate in precedenza, sì, parlavate di romagnoli, giocatori che devono ancora ambientarsi o non sono ancora pronti per l'età e quant'altro. A me sembra che i calciatori del Milan, Romagnoli forse l'ultimo, ma i vari De Sciglio e altri calciatori che Milan ha acquisito spendendo anche parecchi soldi quest'estate, devono ancora dimostrare minimamente di avere la personalità per risollevare una squadra e un marchio che si chiama Milan. Ora, al di là dei discorsi tecnici, quindi delle capacità tecniche appunto di questi calciatori, l'unico che ha fatto qualcosa da Milan, anzi gli unici due finora, sono stati Bacca a Fiammate e Balotelli. Io sì, altri Balotelli, aspettiamo Balotelli, adesso ne parliamo con uno che lo conosce molto bene, ve lo dico dopo il traffico che adesso lanciamo. C'è Cesare Prandelli con cui faremo una bella chiacchierata parlando meglio di lui, anche di Balotelli. Grazie Giulio da Modena. Poi noi restiamo anche in attesa del valore aggiunto di Mihajlovic, perché lo dicevamo prima con sì, Franco sì, Ordine, il dato 9 gol presi da questo Milan come quello di Inzaghi, di cui tutti dicevano non sa curare la fase difensiva. Traffico. Le volte che non mi staccano il microfono, sti signori che mi fanno parlare questi. Lo puoi dire? Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Saluto Cesare Prandelli. Mister, buonasera. Buonasera a tutti. Come va? Come va, mister? Benvenuto. Bene, abbastanza bene, grazie. Sì, segue il calcio, partite, quindi va bene. Oggi che cosa l'ha colpita di più? Fra oggi e ieri sera, perché abbiamo già tanti temi, ne stiamo parlando, parecchi, la crisi della Juve, il rilancio del Napoli, il Milan che non si capisce se cresce o no. Cosa l'ha colpita diciamo di più? Che è un campionato particolare e probabilmente sarà un campionato divertente, perché ci sono molte squadre che devono trovare ancora gli equilibri, c'è una squadra che può allungare, squadre che sono in recupero, quindi un campionato molto interessante, molto interessante. Quindi non crede nella fuga? Faccio due conti: se stasera l'Inter dovesse battere la Fiorentina, si presenterebbe con 9 punti sul Milan, 13 sulla Juventus, aiutatemi. No, sono tanti i punti, sono tanti, le partite sono poche, però sicuramente sarebbe la candidata assoluta. Mister, ma è inutile girarci attorno, le devo chiedere di Balotelli perché insomma il primo mese è stato molto positivo, tutti lo sottolineano, con Balotelli delle volte si finisce per sottolineare la normalità, no? Tipo si sta scaldando tranquillamente, si sta allenando, tra che deve fare? Oggi c'è chi l'ha fatto, oggi c'è chi l'ha fatto. No, ma va bene così. Però va bene, però buono, sì. No? Segnali positivi. Ma io ripeto da qualche settimana a questa domanda la stessa risposta, sarò probabilmente noioso, ma lui si è presentato parlando della paternità, parlando dell'esperienza drammatica della morte del papà, quindi un ragazzo di 25 anni, io lo conosco molto bene, molto chiuso, molto difficilmente esterno a sentimenti, e forse a 25 anni se un ragazzo riesce a dire queste cose, molto probabilmente sulla strada della la maturazione, forse, ecco. Sperando che arrivi la volta buona. Senta mister, come si colloca nel dibattito ormai annoso? Inter brutta ma vince, non gioca bene, non è spettacolare, però vince 1-0 ed è in testa alla classifica. Ma sai quanti scudetti abbiamo sentito? appunto. Poi alla fine quando vinci nessuno si ricorda di più partite giocate non bene, male, nessuno gioca male. È chiaro che dalle grandi squadre ci aspettiamo sempre qualcosa in più, ci aspettiamo grandi giocate, ci aspettiamo un gioco spettacolare, ma all'inizio io penso che in questo momento tante squadre fanno fatica. L'Inter ha un leggero vantaggio, è cambiato parecchio, ma ha preso due giocatori su tutti che forse conoscono molto bene il nostro campionato e si sono integrati in maniera perfetta, Jovetic e Melo. Che tra l'altro lei conosce perché ha avuto la Fiorentina insieme, se non ricordo male. Io trovo Melo diverso rispetto a quello che avevamo conosciuto in Italia, non solo alla Fiorentina, anche alla Juventus. Forse ha anche un carico minore di aspettative, cioè adesso a Melo viene chiesto di fare il mediano. Bravo. Mentre quando arrivò soprattutto alla Juve, pagato 25 milioni, sembrava che dovesse illuminare il centrocampo. Sì, e difatti all'inizio quando leggemmo hanno trovato il nuovo regista della Juve, ecco, è già in difficoltà, perché molto probabilmente se l'avessero considerato un giocatore, un centrocampista, qual è, un giocatore completo, di grande agonismo, di grande temperamento, ma anche un giocatore geometrico, molto probabilmente i giudizi sarebbero stati diversi. Jovetic che invece fa la differenza, forse c'eravamo dimenticati di com'era, visto che si era perso in Inghilterra. No, un giocatore, se non sbaglio, il Manchester City pagò 30 milioni di euro, quindi l'ho trovato fisicamente più forte, l'ho trovato ancora più sicuro, ma è un attaccante moderno, un giocatore che fa gol, un giocatore che riesce a trovare anche il passaggio gol, quindi due grandi acquisti. C'è un eccesso di critica su Allegri in questo momento, al di là del fatto che insomma è chiaro che è una notizia, no? La Juve a 5 punti dopo 6 giornate, è ovvio, ma che non è esattamente quello che nessuno si poteva aspettare. Ma assolutamente sì, io sono convinto che un po' di difficoltà che hanno queste squadre e ovviamente anche la Juventus, che hanno iniziato la preparazione e a fine agosto arrivano i giocatori, cioè, poi in 3 settimane tu devi dimostrare di avere la bacchetta magica e di inventarti tutte le situazioni di gioco e diventa molto molto molto complicata la cosa. Però c'è un po' di aria di fine, da fine ciclo alla Juventus. O da inizio ciclo, no? O da rifondazione. Io sono più d'accordo sull'inizio, perché forse le società, i dirigenti hanno pensato di accelerare un cambiamento dopo un anno strepitoso e quindi è sempre un po' difficile. Però abbiamo visto tanti cicli finire e tutti che dicevano ma potevano cambiare prima, e loro hanno cambiato prima e ci vuole un po' di tempo. Non possiamo rimangiarci quello che abbiamo detto per tutta l'estate, ciclo che parte, a differenza di quello aperto da Conte nel 2011, senza un uomo come Pirlo, perché noi poi è vero che l'ultimo Pirlo non era quello di 4 anni fa, però sottovalutiamo anche che Conte si trovò in casa qualcuno capace di mettergli in fila tutti i tasselli del puzzle in un colpo solo, e Pirlo quanto sia importante l'abbiamo visto anche in nazionale, e oggi Allegri un giocatore così non ce l'ha, né per classe, né per tecnica, né per tattica, né per carisma, né per esperienza. Non ce l'ha nessuno, o lo cloni o non ce l'ha nessuno. Sono perfettamente d'accordo, non si può clonare un altro giocatore e metterlo nel ruolo di Pirlo e farlo giocare alla Pirlo, per quello che l'allenatore ha bisogno di tempo per capire a fondo le caratteristiche dei giocatori e farli rendere al meglio. Quindi troveranno altre strade, troveranno altri modi di sviluppare gioco. Se pensi di sviluppare lo stesso modo e interpretare quel ruolo come faceva Pirlo, allora è dura, eh? È dura, è difficile. Lei ha parlato spesso nei mesi scorsi, negli anni scorsi, della crisi del calcio italiano con i suoi talenti, con i suoi giovani che fanno fatica, che giocano poco. Io ieri ho tratto come notizia migliore di Napoli-Juve, i napoletani ovviamente godono per la vittoria, Insigne, Lorenzo Insigne, che ha iniziato la stagione, e io credo per Conte, che ieri era a Napoli, probabilmente si è aperta una prospettiva. Qualcosa. Cosa fa un CT quando vede un talento come Insigne esplodere così? Lo porta ai mondiali come ha fatto Prandelli, contro ogni aspettativa. Convocato. Poi è chiaro che dipende poi dal momento, dalla stagione magari logorante, arrivano magari stanchi, però è un talento, è un vero talento e che si può adattare in tanti ruoli, ma forse il suo ruolo è quello che abbiamo visto ieri sera, un trio d'attacco, lui sull'esterno che taglia il campo, che è un giocatore che riesce a dare anche un passaggio gol con una grandissima qualità, poi vicino all'area di rigore sente la porta, quindi è un giocatore veramente importante. Ma siamo messi così male in vista dell'europeo, soprattutto davanti, che è un po' il tema che ci trasciniamo? Non è che siamo messi male, però come si diceva quando qualche mese fa ero sulla panchina della nazionale, si diceva che la nazionale è costretta a far fare esperienze a livello europeo a dei giocatori. Prima arrivavano i giocatori nazionali già con dell'esperienza di club, adesso è un po' più difficile. Sì, sì, sì. È un po' più difficile. E poi secondo me dipende anche, non so se il mister è d'accordo, da come arrivano i giocatori. Cioè, a me sembra che l'aspetto fisico e l'aspetto anche della fatica mentale poi alla fine influisca molto. Io adesso non so se gli capita di ripensare all'esperienza brasiliana e anche alla differenza fra l'esperienza brasiliana e invece quella di Cracovia, perché insomma c'è stato anche uno straordinario sono due mondi diversi, completamente diversi, esatto, completamente diversi, l'intensità di gioco, l'intensità di gare sono completamente diversi, quindi secondo me il calcio italiano dovrebbe portarsi sulla strada dell'intensità, di grande intensità. Allora a livello internazionale sei abituato e poi se hai della qualità puoi fare la differenza. Sì, rubiamo ancora l'ultimo minuto a Cesare Prandelli per chiedergli cosa si aspetta stasera da Inter-Fiorentina. Ma mi aspetto una bellissima partita, perché il calcio è magia. Quindi non è vero che ci sarà noia, perché sono le due squadre che attaccano meno di tutto il campionato. C'è anche chi ha detto, facendo una battuta, vediamo se qualcuna delle due supera la metà campo. Saranno obbligate giocando una contro l'altra. Diciamo che prima che l'arbitro fischi, tutti abbiamo grandi critiche, cerchiamo di capire perché, dove dobbiamo migliorare, cosa bisogna fare. Poi nel momento che fischia l'arbitro tutti zitti e stiamo con la bocca aperta, perché il calcio è un gioco meraviglioso e almeno io come tifoso mi auguro stasera di vedere una grandissima partita. E poi ci spiegherà, ci aiuterà anche a capire perché a Firenze ce l'hanno con i Della Valle, con una squadra che è seconda in classifica, perché evidentemente lo scetticismo non è ancora stato cancellato. Qualcosa di vecchio questo, qualcosa di antico. Firenze è particolare? Firenze è molto particolare, però io vivo Firenze, sento l'umore della gente, mi sembra che stiano apprezzando tantissimo questo secondo posto e anzi stasera possono anche sognare. Prossima panchina? Prossima panchina non lo so, anche perché sai benissimo che non possiamo scegliere, ma saremo magari forse contattati e poi si deciderà. Non quella del parco perché è presto, grazie mister. non scherziamo. No, stavamo scherzando. Potrebbe anche stare. Grazie. No, grazie a Cesare Prandelli. Grazie a voi. Grazie a Cesare Prandelli, 800 24 00 24. Hai capito, quindi Balotelli semaforo assolutamente verde anche da chi l'ha conosciuto, l'ha valorizzato, l'ha anche un po' subito, diciamo la verità, nell'esperienza del mondiale del 2014. È stato proprio tradito, quel mondiale, sì. Lì è stato, non solo da lui ovviamente, però è stato tradito. Io penso che Prandelli abbia si è praticamente una vittima di quell'esperienza lì, nel senso che Prandelli ha fatto 4 anni in nazionale, di cui 3 anni bellissimi, con un risultato agli europei clamoroso, con un cammino di qualificazione ai mondiali di altissimo livello, poi come succede ai CT delle nazionali tutto te lo giochi in poche partite, nello specifico in 2 partite che sono state 2 sconfitte. Non è molto diverso da quello che ha fatto Capello in Inghilterra aveva vinto le prime 9 partite del giro di qualificazione, era arrivato con grandi aspettative al mondiale e poi andava malissimo, quindi insomma la nazionale è un mestieraccio, però non è che sia andato bene in Russia, ti giochi tutto veramente in pochissime situazioni, e lì probabilmente Prandelli si è fidato troppo di Balotelli, della crescita, della maturazione. Magari già con un Balotelli così sarebbe stato diverso, però io su Balotelli sposo il lodo Montolivo, il lodo Mihajlovic, aspettare almeno Natale. Cioè, a Balotelli non sono mai mancati i colpi e non è mai mancata la capacità. Oggi per esempio io ho visto un'altra partita secondo me positiva come disponibilità nei confronti della squadra. C'è un dato numerico, ci sono questi geni di Opta che ci fanno i press kit per le partite, e nella partita di Udine Balotelli ha fatto 44 passaggi ai compagni, cosa che non era mai successa nella sua esperienza oggi al Milan, no? Questo vuol dire che sta giocando con la squadra molto di più e mostra una grande crescita. Però attenzione, perché un po' come il Cassano di qualche anno fa, cioè la Cassanata o la Balotellata è sempre non sottovalutare il disperato bisogno che l'Italia ha di qualità, assolutamente. Quindi sono tutti lì che lo aspettano perché l'Italia ha un disperato bisogno di qualità offensiva. Con gli attaccanti che abbiamo non si va da nessuna parte, cioè con quelli che abbiamo visto negli ultimi mesi. Allora, c'è Salvatore da Milano, gli chiedo di pazientare un paio di minuti, torniamo subito. Se Kvir ti ha detto qualcosa dopo la partita? Niente di particolare. Kvir ha detto, lui ha chiesto lo scudetto, magari l'ha chiesto anche a te. Ah, se l'ha chiesto a loro, e loro sono così carini da portarlo, sono contento. Tutti convocati. Tutti convocati. Andiamo da Nicola da Caserta. Nicola. Sì, salve, buonasera. Eccoci. Innanzitutto complimenti per il programma. Io volevo parlare, ritornare un attimino sulla crisi della Juve. Sì. Della mia squadra. Ieri sera me ne sono andato alla festa del pesce a Positano piuttosto che andare a San Paolo a vedere, perché sapevo già come andava. Da Juventino. Beh, da la festa del pesce a Positano, scusi, ma vince contro qualsiasi Juve e qualsiasi Napoli. Siamo al top, siamo al top. Grande ottimismo, intorno alla squadra comunque. Purtroppo. Cioè, non è che è stato, capito, a casa con la febbre. Bella lotta. Però voglio dire, tornando un attimino seri, perché poi calcio è una cosa seria, noi ci appassioniamo. No, ma noi siamo seri, non abbiamo mai smesso. Lo so. Io credo che, come dicevate voi qualche minuto fa, le colpe vadano un attimino divise tra la società e l'allenatore. La società, io non riesco a capire, arriviamo in finale di Champions, incassiamo soldi dalla cessione di Vidal e stiamo fino all'ultimo minuto del calciomercato ad inseguire questo famoso transfer. Al posto suo arriva Hernanes. Quando io leggo che arriva Hernanes e mi meraviglio di come poi i commentatori, una sorta di mea culpa la dovrebbero fare un attimino tutti i commentatori, perché questo stadio sentivo dappertutto e da tutti, nessuno escluso, l'unico che non ci credeva ero io purtroppo, che la Juve si era rinforzata, partiva ancora una volta molto avanti. Tutti quanti dimenticavano che questa campagna acquistata aveva 3-4 punti interrogativi ed un errore gravissimo alla fine, cioè un allenatore che ti chiede il trequartista, tu non arrivi al trequartista e prendi Quadrato. Ma la mia domanda era, ma Quadrato cosa c'entra con l'idea? No, non c'entra nulla, è come se tua moglie ti chiedesse la carne e tu gli portassi Quadrato, a casa dal mercato il pesce. Quadrato è stata un'opportunità, Quadrato appunto, tua moglie ti chiede la carne, poi c'è il pesce in offerta e lo prendi. Io non so come finisci tu, Marotta e Paratici possono farlo. Sì. No, ma io mi prendo anche la mia implicita dose di responsabilità, nel senso che anch'io non mi aspettavo questo inizio di stagione. Ho detto e lo ribadisco che Hernanes oggi è veramente impopolare dirlo, perché ieri ha giocato malissimo, insomma, fossi stato l'Inter non l'avrei dato, perché in ogni caso mi sembra che abbia risolto o almeno potenzialmente possa risolvere un problema al centrocampo della Juve. Bisogna considerare che è stato preso nelle ultime ore di mercato, quindi veramente in una situazione in cui la Juve era spalle al muro. Nella seconda parte del mercato le cose non sono andate bene. La Juve ha fatto un buon mercato secondo me in prospettiva, nel senso che la Juve ha preso dei giocatori e lo stiamo vedendo. dicendo, come per esempio Dybala, come lo stesso Rugani, che possono essere giocatori di prospettiva per il futuro, per cominciare il ciclo, come dicevamo qualche minuto fa con Prandelli, non per continuarlo. Ecco, questo, su questo non ci sono grandi dubbi. Poi non è che abbia speso poco la Juventus. No, assolutamente. Poi ci sono delle cose che abbiamo detto sempre, detto che non ho capito, tipo Llorente che viene dato gratis. Regatto. Sì, insomma, giocatore che poteva far comodo, che poteva essere utile per monetizzare, non lo so. Però la rosa della Juventus al completo è un'eccellente squadra ed è un eccellente punto di partenza per costruire qualcosa. Sì, ci sono degli equivoci di fondo, le condizioni di Khedira da tanto che non giocava, evidentemente un motivo c'era, si è bloccato subito, adesso vedremo se la Juve riuscirà a ridargli una condizione fisica molto buona. E poi la grande, secondo me, ad oggi, però, se dovessimo spiegare il calo è dovuto al fatto che comunque la personalità e la qualità di quei tre lì, insomma, non è facile, eh? Cioè, se anche ne prendi tre bravi ugualmente, però comunque non hanno la stessa forza morale, la stessa abitudine a certe sfide, quindi tutto da vedere. Sono curiosissimo di mettere in conto quello che è. Salvatore da Milano, Salvatore. Buonasera. Eccoci. Non sono da Milano, ma sono da Chiusi, sono in autostrada. Sì. Buonasera a tutti e grazie di essere stato convocato. Grazie a te. Prego, dai. Io sono interista. Sì. Felicemente interista. Volevo solo aggiungere e dire che Allegri non è allenatore da Juve, è un allenatore da squadra medio-bassa. Chi Allegri? Allegri. Uno studente è arrivato in Champions semplicemente grazie all'allenatore passato. Ma questo è una bugia. Ma questa è un'opinione, io rispetto, però mi sembra. Vi sentivo, come diceva come ha scritto un ascoltatore, anche nel caso del Milan, della sua esperienza al Milan, non ha continuato nessun ciclo, ha cominciato un ciclo, poi nel secondo anno si è perso con una serie di cose anche abbastanza da fenomeni paranormali che sono capitati quell'anno. Ricorderete gli infortuni di Gattuso e Cassano, che furono due infortuni completamente non tecnici, un problema all'occhio, un problema al cuore, un Ibrahimovic molto nervoso, senza entrare nel merito delle polemiche arbitrali, però insomma, diciamocelo apertamente, non era cominciato male il secondo anno di Allegri al Milan. E al Milan lui aveva cominciato un ciclo e poi gli hanno smontato la squadra, perché anche il mercato di tutti i senatori che se ne vanno e di Ibra e Thiago che se ne vanno è qualcosa di poco normale. Ciao Ibra, come stai? No, noi facciamo radio, Ciao Ibra, mica ho detto vaffanculo. Tu dici che io sono troppo nervoso, va bene. No, io non dico niente. Tu, io gioco in PSG, ma non prima ho detto, giocavo in Barcellona. Se tu vuoi dire qualcosa a me, devi venire a me a dire ok. Ma niente, cazzo Ibra. Guardi. Ma non sto guardando. Cazzo dici? Come siamo in radio, scusa. No, però lo stavi guardando, Pierre. Dove? Cosa? Siamo in radio, cosa tu guardo? Fai troppa televisione. Guardo giù. Parli troppo. Abbassa lo sguardo. Guardo giù. E tu in regia torna in cucina. Okay. Va bene. Parliamo di Inter Fiorentina. Io credo che il centrocampo è un centrocampo non solo di intensità, qualità, ma con una componente fisica veramente molto importante e molta maturità, non solo su quel reparto, ma praticamente su tutti i reparti. Anche quello è una cosa che conta, avere una squadra abbastanza fisica sul campo. E poi allo stesso tempo abbiamo anche dei giocatori tecnici, perché ho citato prima Bialiani, sono giocatori tecnici, lo stesso Mero è un giocatore tecnico, nonostante che sia un macellaio, ti dicono. Ma per vincere il bel gioco aiuta? Senza dubbi, è molto più facile quando hai un controllo del gioco con possesso palla che quando subisci, ma la idea di un bel gioco è diversa da te, da me, da tutti. se uno riesce a iniziare il campionato cercando di fare il massimo, cercando di fare più punti possibile, cercando di giocare bene, io non vado mai dai miei giocatori a dire guarda cerchiamo di giocare male, che è la cosa più importante. Io non credo di aver mai detto a nessun mio giocatore una cosa così. Per il momento sono abbastanza contento, poi che la squadra debba migliorare, ma non deve migliorare solo l'aspetto dei gol, perché è chiaro che si possono vincere tutte le partite per 1-0. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Sa se il Trap chiedeva di molto giocare bene, male pur di vincere. Lo chiediamo a uno che col Trap ha giocato anche in quell'Inter lì che all'inizio era criticata come questa di Mancini. Aldo Serena, ciao Aldo. Ciao a tutti. Quante volte vi ha detto, mi raccomando, giochiamo male stasera. Grande male, male. Al dito. Ciao Pier. Io ho sentito l'intervista di Paolo Sole, sono d'accordo con lui. È importantissimo il controllo della partita, il giocare bene è relativo, è opinabile, e non ho mai sentito Trappattoni dirci di giocare male, anzi di rimanere equilibrati, di rimanersi con attenzione alle coperture difensive, questo in ogni partita, però non certo di giocare male. Nessuno dice, non credo esista un allenatore al mondo che dice di giocare male, però tutti ti dicono proviamo a portarla a casa. C'è chi ha fatto l'elogio dell'1-0 Capello questa settimana, l'elogio dell'1-0 come espressione massima della capacità di un allenatore anche di adattarsi agli uomini che hai al momento. Tutto secondo me si spiega con quello slogan di un'azienda di gomme da macchina che era la potenza è nulla senza il controllo. Ci sono squadre che giocano un calcio bellissimo, spettacolare, ma che spesso vanno fuori giri. Il Napoli ha giocato fin qui momenti eccelsi, in altri momenti si è lasciato trasportare da grandi timidezze, da grandi fragilità. La stessa partita della Roma di ieri, che pure sarà una partita stradominata, però comunque secondo me la Roma ha concesso delle occasioni al Carpi che non è sano, non è bello che vengano concesse. Quindi il discorso che fa Aldo è assolutamente vero. Poi è ovvio che delle 5 partite che l'Inter ha giocato, proprio perché non ha in questo momento una forza straripante, alcune poteva non vincerle. In un paio, lo dico non per polemica, ci sono stati anche episodi arbitrali sui quali si è lungamente discusso, quindi è chiaro che finché giochi così sei sempre a rischio, no? Che l'episodio sfavorevole ti possa... Però quello che ha dato Mancini è stata una forza, una compattezza, una sicurezza a questa squadra che nessun'altra squadra in Italia in questo momento ha. Quindi da questo punto di vista il primo posto è strameritato. Poi anche un disegno, perché comunque è un'eccellente base di partenza da cui cominciare e costruire qualcosa anche di più bello, anche di più divertente se vuoi, però Mancini ha costruito e disegnato un'eccellente base di partenza con i giocatori che ha voluto lui. Aldo, secondo te l'Inter stasera si gioca la prima carta scudetto? Se vince, leggo, lascia la Roma 7 punti, Napoli e Milan 9 punti, Juventus a 13. Esatto, se vince non si può nascondere, perché è vero che 6-7 giocatori nuovi non sono semplici da assimilare in breve tempo, e soprattutto anche alcuni arrivati a campionato in corso, e non ho mai credo in passato, nessuno mai credo abbia vinto lo scudetto avendo cambiato 7 undicesimi, però ecco, questa è una squadra che è fatta a immagine e somiglianza di Mancini, l'ha voluta lui così, ha voluto un centrocampo così forte, così potente, e nella fase di interdizione ha voluto giocatori d'attacco estrosi, tecnici, che possono anche a partita in corso come gli Aic entrare e portare anche un contributo importante con delle accelerazioni, con le loro invenzioni. Quindi io penso che se l'Inter questa sera dovesse battere la Fiorentina, insomma, si candida. No, ma anche perché appunto, se l'Inter ha vinto 5 partite così e ancora praticamente Icardi si è visto pochissimo, gli Aic non si è visto per niente, Perisic anche, Perisic con Dubiae al 60%, capisci, questa secondo me è il punto fondamentale, ed è il margine di crescita di questa squadra. Forse il giocatore che più si è visto è stato Jovetic nel complesso, è quello che gli ha acceso la luce quando erano magari in momenti un po' difficili. Sicuramente Jovetic davanti, Felipe Melo in mezzo, ma insomma Handanovic ha risolto con la sua sicurezza tante situazioni. Insomma, mi sembrano tutti segnali molto, molto positivi. Sì, anche Medel, che si è scoperto difensore centrale, in Cile lo conoscevano, in Italia è una scoperta, ci prova la Roma con De Rossi, qualcuno, io non mi ricordo chi, diceva qualche settimana fa, attenzione perché potrebbe essere la rivoluzione del calcio, cioè arretrare fisso un centrocampista sulla linea di difesa per liberare un centrocampista poi nella fase offensiva. So che è un po' complesso, però la verità è che l'Inter ha trovato un equilibrio così, Aldo, poi torneranno Mirando e Murillo e dovranno giocare loro. Sì, ecco, l'Inter non è una squadra di Guardiola, insomma, che può fare questo. Certo, Medel è un polivalente, lo ha fatto anche in passato, quindi, e lo sta facendo anche adesso, perché è un giocatore intelligente sotto il profilo tattico, e anche molto bravo e rapido nei movimenti, nei recuperi difensivi. Ecco, è un Inter che a mio avviso è in testa al campionato, ma appunto, come avete detto che voi, non ha espresso l'enorme potenziale che ha. E questa è una buona notizia per Mancini, certo. Perché vuol dire che c'è ancora un'altra strada, margine. No? C'è ancora molto margine. Sul discorso dei centrocampisti, io penso che il vero rischio sia l'esuberanza, nel senso che penso a De Rossi, per esempio, è un giocatore di grande temperamento, qualche volta esagera un po', lo stesso Medel. È un conto chiaramente fare un fallo a metà campo sulla tre quarti di campo, un conto in area di rigore, quindi è chiaro che nella posizione del difensore devi avere maneggiare con cura, però dal punto di vista poi non è neanche una cosa così nuova, perché insomma la Beckenbauer in poi di ragionamenti così ne abbiamo visti tanti, no? Lo stesso Mascherano, Però ecco, è un Inter che non è solo brava negli 11 che giocano, secondo me ha un panorama nella rosa anche di livello superiore a alcune squadre blasonate nel campionato italiano, perché Gnucuri, Brozovic sono delle alternative che saranno, secondo me, nell'arco della stagione utilizzati, perché hanno delle qualità di fondo. Ecco, forse all'Inter manca un vice Icardi, un giocatore d'area di rigore di ruolo che non ha, ma Palacio mi sembra che possa sostituirlo degnamente in alcuni casi, cioè Icardi è ancora giovane e quindi ha un fisico integro. Grazie Aldo, buona partita. Ci vediamo, so che stai andando a San Siro. Ci vediamo a Torino mercoledì? Esatto, ci vediamo a Torino mercoledì. Appuntamento radio di servizio. Grazie Aldo Serena. Alle 6:30 davanti alla Gran Madre, va bene? Appuntamento con tutti gli ascoltatori, tutti i comuni. Traffico. Alle 5. In Italia si va per luoghi comuni, come quando si inizia a dire Melo un picchiatore, vai espulso. Pure Mancini un po' allenato perché non ha il patentino. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta. Tutti convocati. 800 24 00 24. Oggi abbiamo lanciato il sondaggione su Allegri. Come sta andando? Va andando oltre l'80%. Signor Capuano. Quindi un plebiscito nel nostro bianco o nero. Tra Allegri deve andarsene perché è colpevole. Gli innocentisti. Vincono gli innocentisti. È strano. Oltre l'80%. È strano anche perché poi chi ha chiamato? Chi ha mandato gli sms e invece era per la capitolazione di Allegri. La segmentazione. Invece da Twitter. Quasi tutti quelli che chiamano sono contrari. Se però noi facciamo un'altra cosa, che poi di solito, scusate, posso dirlo, di solito è il contrario, nel senso che per esperienza qui a Radio 24 spesso scrivono nell'anonimato, ti arrivano dei messaggi tremendi, poi quelli che chiamano invece sono tutti molto morbidi. Cambia. Invece noi lanciamo oggi un'altra cosa, torniamo dietro di qualche settimana. Torniamo. Ecco, perché fuori Bacca e non Onda, visto che era un Milan sotto di un gol? Perché io faccio allenatore e lei fa presentatrice. Io le chiedo il cambio, insomma, ovviamente, io faccio il mio ruolo, lei fa il suo, però anche le chiedo io il cambio. Faccio mio. E poi ieri sera è successo di nuovo. Tra quello che era il cammino della Juventus lo scorso anno e quello che è l'inizio di questa stagione, e in che cosa manca la Juventus, guardando anche la classifica, perché poi alla fine parlo. Secondo lei in cosa manca? Scusi, le faccio una domanda. No, io lo chiedo a lei, cosa... io faccio il mio ruolo, guardi, io faccio il mio ruolo. Capito, basta vedere la classifica, no? Ma scusi, abbia pazienza, le ho spiegato ora, basta vedere la classifica. Abbiamo 5 punti. Oh, al di là che erano nervosi giustamente sia Mihailovic che Allegri, salviamo di Galera Calcagno. No, fra l'altro devo dire che ha risposto in tutti e due i casi con grande personalità, cosa ovvia. Però lanciamo non campagna. Tanto ovvia, ma insomma da sottolineare. Sì, anche perché quella domanda lì, per esempio quella Mihailovic nel derby, è una domanda che ci stava completamente, insomma. Poi posso anche se d'accordo con Mihailovic sul fatto che giocare con tre punte sarebbe stato sbilanciare troppo la squadra. Beh, ma basta dirlo, no? Però basta spiegarlo, dirlo, non è un problema. E, beh, insomma, il lavoro è usurante. Mica! Michela, Michela, yeah. La Calcagno. Sì, perché c'è chi la tratta bionda. Bene la Calcagno, eh. Non è solo presidente. C'è questo bel abitino, meglio da amico. Sì. C'è pure a panza da amico. No. No, no, no, no, no. Ci fate due mescette così batti da amico. Michela, sei so, troppo bella. Quindi lei non è d'accordo con come è stata trattata Michela. Damiano Lovici Allegri? No, no, risponda. No, no, no, assolutamente. Ma che sta a dire? Le donne vanno coccolate. Ecco, no, ma basta Michela, rispondere, basta rispondere alle domande. Sambe. Gente che sta a ridere, Fabrizio da Barbagallo, no, no, Ibra mi dice di guardare basso. No, ma che c'è la telecamera? Presidente, stia lì. Fabrizio da Verbania, Fabrizio da Verbagna. Fabrizio, non si dico. Buonasera, sì, buonasera Fabrizio. Volevo riallacciarmi un attimo all'argomento su Allegri. Cioè, io penso che Allegri sia un allenatore bravo a chiudere i cicli degli altri, come si fa vedere. Ma perché? Ma che ciclo ha chiuso? Ma che ciclo ha chiuso? Nel 2000, quello della vecchia retroguardia, quello di Leonardo, no, quello di Ancelotti. Ma no, Ancelotti era tre anni prima, dai. Ancelotti era un'altra squadra, però aveva Pirlo, Seedorf, così, che comunque facevano parte della retroguardia di Ancelotti. No? Poi sono andati via loro e ha cominciato a perdere. Ma non è neanche arrivato però, in certo. Però non è che Capello, che è l'allenatore che stimo alla follia, o Ancelotti, idem, allenino dei giocatori, se non voglio far nomi, insomma, allenino giocatori di seconda fascia. Cioè, senza giocatori non si va da nessuna parte. Io trovo che su Allegri ci sia accanimento. Comunque, ognuno pensa quello che vuole. Ma, per ma perché questo? È un allenatore, è un allenatore giovane, che ha già vinto due scudetti, che ha fatto una finale di Champions, che il terzo anno con il Milan, al di là di tutto, ha fatto una rincorsa strepitosa. Ha fatto anche degli errori, delle brutte stagioni. Questo è evidente, no? L'ultima stagione al Milan, l'esonero col Sassuolo, nessuno discute, però. Mi sembra veramente che con lui ci sia sempre un po' un pregiudizio, insomma, che venga considerato uno un po' sfigato, e secondo me non lo è affatto. E la stagione scorsa è stata una stagione incredibile, veramente incredibile. Poi vabbè, insomma, si può discutere sulla finale, su come è andata la finale, però insomma, non si può discutere sul lavoro di Allegri dell'anno scorso. Poi se per un inverno abbiamo detto che aveva cambiato pelle alla Juventus, non possiamo oggi, credo, rimangiarci tutto. Ma se c'ero io alla Juventus queste cose non succedevano. Ma lei l'avrebbe tenuto? Farebbe oggi. Guarda, tu dovresti saperle queste cose. Con me alla Juventus qualsiasi allenatore andava bene, eravamo in testa alla classifica. Io ricordo che ha mandato via Lippi, Dei lanzichenecchi dell'informazione. No, non creiamo sterili polemiche. Io sono giornalista, c'ho il tesserino. Adesso il tesserino c'ha. Io c'ho il tesserino, posso dire. Ma lei qualche lanzichenecco dell'informazione lo vede qui in questo studio? Ce l'ho qua davanti, sei te, Pardo. Grazie. Riusciamo a far fare 30 secondi ad Antonio da Firenze, vi richiamo all'ordine, dai, Antonio da Firenze che ci aspetta, 30 secondi Antonio, ciao. Ciao, buongiorno, sentite? Dici. Sì, una piccolissima critica, parlate di tutto tranne che della Fiorentina, che è seconda in classifica. Abbiamo parlato con Cesare Prandelli della Fiorentina, però dici. Cesare Prandelli è roba dell'era Ci dica con chi chiamiamo. Non voglio fare Tenerani. A un certo punto vi ho detto parleremo di Inter Fiorentina, parlate soltanto di Inter. Ma santa Madonna, veramente, ma un minimo, non dio la. Allora, convocato per domani Carlo, il nostro amico Antonio da Firenze, prendiamo il numero dopo le 14 e fatevi trovare anche un interlocutore viola. Sì, ma ci prendiamo questo impegno. Ma l'interlocutore viola, poi ci prendiamo questi, se c'è Rotano. Io domani sera, domani sera, se lo dico pubblicamente, se la Fiorentina mi dà un giocatore per tiki taka, uno qualsiasi, chiamate Renzi. No, chiamiamo Renzi. È finita. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Gianmarco Ferronato in regia. Appuntamento con tutti i convocati domani, dopo il GR delle 14. Spero da Milano, non so da dove, perché anche questa settimana so che si va in giro. Io sono giornalista e noi ci sentiamo domenica. Se non puoi viaggiare, dillo. Se hai paura di guidare. Ciao.